Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Accordo fatto, azienda, sindacati, governo e regione hanno formalizzato un percorso per la varsila di San Dorligo. Ripresa della produzione fino a marzo, ammortizzatori sociali e poi reindustrializzazione. La firma a Roma a tarda notte. Centro-sinistra sulle barricate, ma anche nel centro-destra suscita dissensi e distinguo la proposta del parlamentare triestino Roberto Menia, eletto in Liguria con Fratelli d'Italia, di inserire in Costituzione una norma di tutela della lingua italiana. Al via la realizzazione della mappa del rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia. La regione ha affidato l'incarico all'Università di Trieste. Dopodomani la prima riunione operativa, territori a rischio sia in montagna che lungo la costa. La regione acquista dal comune di Trieste 4 edifici in Porto Vecchio, diventeranno uffici, ospiteranno un migliaio di dipendenti, 10 milioni e 700 mila euro il prezzo che il municipio incasserà. Lavori in corso nell'area dell'Isert a Monfalcone per la realizzazione dell'impianto di appettigorizia per la produzione di idrogeno destinato ai primi 18 autobus, un investimento complessivo da 20 milioni di euro. Seconda giornata al CRO di Aviano del convegno scientifico che ha messo a confronto esperti italiani e statunitensi dell'Anderson Cancer Center di Houston, uno dei maggiori centri oncologici al mondo, primo passo di una collaborazione quinquennale tra i due enti di ricerca. Udine annuncia il programma natalizio, a Trieste aria di Natale già stasera, al Rossetti con il Soweto Gospel Choir. Per la cultura stamattina sempre a Trieste un incontro su Umberto Saba, fra gli ospiti Mario Cerne, storico titolare della libreria Saba. A Grado omaggio a Pasolini, lettura dei suoi versi più celebri e poi uno spettacolo dedicato a Medea, è incentrato sull'incontro tra il poeta regista e Maria Callas. È mercoledì 30 novembre 2022, sono le 7:20 minuti e 20 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo, il cielo è variabile sul Friuli Venezia Giulia e queste sono le temperature registrate alle 6. A Trieste 7 gradi, il vento soffia a 50 km orari da est-nord-est, Bora, con raffiche che hanno raggiunto gli 85 km orari. A Gorizia 6 gradi, a Udine 4, a Pordenone 0, Tolmezzo 1 grado e 5, a Tarvisio 0, Forni di Sopra meno 2, Biancavallo meno 4 e 5, a Sapada meno 5 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan meno 5 e mezzo, sul Lussari meno 7, a Lignano e a Grado 7 gradi e mezzo. E queste le previsioni fornite dall'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi di primo mattino cielo variabile e poi cielo da nuvoloso a coperto. Su pianura orientale e costa soffierà bora moderata con raffiche sostenute su Carso e Trieste. Sulla zona montana soffierà vento da nord o nord-est moderato in quota, specie su Alpi e Prealpi Giulie, dove dal pomeriggio sarà possibile nevischio da 500 metri circa. Sul fondovalle del Tarvisiano possibili nebbie nella notte. Accordo firmato nella notte per il futuro dello stabilimento varsila di San Dorligo della Valle e per i suoi 451 lavoratori, il tavolo di confronto aperto al Ministero per le Imprese ha delineato un percorso. Domani i dipendenti si riuniranno in assemblea. Ripresa dell'attività fino a marzo con il contestuale sblocco dei motori in consegna, poi il contratto di solidarietà fino a settembre 2023, declinato in base ai carichi di lavoro, con l'integrazione salariale garantita dalla Regione di 3 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro al mese. Nel frattempo l'impegno di Varsila e del Governo ad avviare un percorso di reindustrializzazione con ammortizzatori sociali di accompagnamento fino al subentro a regime del nuovo soggetto industriale di cui ancora non è emerso un favorito tra i 6 potenziali investitori di primo piano individuati. A garantire il percorso il governo stesso, con la dichiarazione messa nero su bianco dell'importanza strategica del sito di Bagnoli della Rosandra. Sono le basi dell'accordo che ha preso forma tarda sera tra sindacati e azienda a Roma sotto la regia del Ministero delle Imprese. Un accordo che prevede un monitoraggio costante e la riconvocazione del tavolo entro marzo, prima della fine della garanzia della piena occupazione per i 347 lavoratori. Giovedì si riuniranno in assemblea per analizzare i passi avanti compiuti nella capitale. Andrea Cobre, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 36 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto verso le 23:30 di ieri in una fabbrica nella zona dell'autoporto di Gorizia. È rimasto schiacciato al torace da una pressa. Sul posto un'ambulanza e l'automedica. L'uomo è stato assistito e poi trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La proposta del senatore Roberto Menia di tutelare la lingua italiana con una norma da inserire in Costituzione ha provocato una levata di scudi. Dal "nessuno tocchi il friulano", avvertimento lanciato dal coordinatore regionale leghista Marco Dreosto, alla reazione della parlamentare PD della minoranza slovena Tatiana Rojc. L'italiano riconosciuto come lingua ufficiale dello Stato nella Costituzione, lo chiede il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, che nel commentare sulla stampa locale il suo disegno di legge costituzionale ha aggiunto che a parer suo le lingue locali invece dovrebbero rimanere fuori dalle aule scolastiche. Una riflessione che in regione ha scatenato non solo la levata di scudi delle opposizioni, ma anche il fuoco amico di Lega e Forza Italia. Nessuno tocchi il friulano, avverte il senatore e coordinatore regionale leghista Marco Dreosto. Tutelare e garantire le minoranze linguistiche non rappresenta un pericolo per il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della nostra Repubblica, dice il sottosegretario all'economia, la triestina Sandra Savino. Non confonderei mai i due piani, perché questo vorrebbe dire fare un salto indietro di decenni. Il capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Morettuzzo, parla di fatto gravissimo e annuncia una mozione per chiedere alla Giunta Fedriga di prendere le distanze dalle dichiarazioni di Menia. Menia vuole alzare steccati contro un inesistente attacco delle lingue minoritarie, parlate da piccolissime percentuali di cittadini e proprio per questo da difendere, è la reazione della senatrice PD Tatiana Rojc, esponente della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia. E il segretario regionale Dem Renzo Oliva si chiede se i compagni di coalizione di Menia in regione abbiano qualche imbarazzo, perché noi, dice, abbiamo qualche brivido. Per il presidente dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, Urmair, la richiesta di Menia è un'omologazione linguistica del tutto fuori dal tempo. Menia, da noi contattato, sottolinea: ho precisato nella relazione al DDL che la Costituzione tutela le lingue minoritarie ed è ovvio che i livelli acquisiti non vengono toccati. Detto questo, ribadisco che personalmente sono sempre stato convinto che a scuola sia sbagliato parlare in dialetto. Si insegni l'italiano e in italiano. La lingua comune è quella che tra l'altro favorisce l'integrazione. O volete far parlare friulano e tanti bimbi di cinesi, serbi, albanesi che sono sempre più numerosi nelle nostre scuole, conclude Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 8.000 gli abitanti residenti in paesi di montagna a rischio frana, alcune decine di migliaia gli abitanti residenti sulla costa in zone esposte ad alluvioni. Il Friuli Venezia Giulia non è immune al dissesto idrogeologico. All'Università di Trieste è stata affidata la mappatura delle zone a rischio. Inizieranno a giorni i colloqui tra Regione e Università di Trieste per studiare soluzioni di carattere ingegneristico e idraulico in grado di mettere in sicurezza i punti più fragili della nostra fascia costiera. Quasi un quarto del territorio del Friuli Venezia Giulia è a rischio alluvione medio o elevato, vi abitano 80.000 famiglie. L'obiettivo del tavolo tra protezione civile ed esperti sarà quello di ridurre la pericolosità legata ai fenomeni marini, come l'acqua alta in concomitanza con eventi atmosferici di forte intensità, sempre più frequenti. Trovare innanzitutto i punti più fragili del tessuto urbano da dove entra l'acqua. Alcune delle ipotesi che circolano tra gli esperti riguardano i comuni più vulnerabili. In primis Grado, dove l'acqua entra non tanto dalla parte rivolta a mare, quanto da quella rivolta alla laguna. Qui una soluzione potrebbe essere una sorta di sponda distaccata che possa anche accogliere imbarcazioni, facendola di porto nautico, ma che possa fare da barriera, con tanto di paratie mobili che possano essere chiuse all'occorrenza, una sorta di mini Mose. A Muggia le sponde andrebbero rialzate, a Trieste si potrebbe ipotizzare una difesa frontale perché la città è vulnerabile all'acqua alta sul fronte centrale. A Lignano Sabbiadoro la fragilità è legata a specifici punti bassi da cui entra l'acqua, si possono presidiare rialzando una sponda o mettendo paratie in grado di bloccarla. Opere progettabili rapidamente, sulla scorta di migliori esempi in Europa, e implementabili con investimenti adeguati anche entro 4-5 anni, così da mettere a riparo le coste del Friuli Venezia Giulia, per quanto possibile, dalle conseguenze nefaste della crisi climatica. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. A breve gli uffici della direzione completeranno il decreto con il quale la Regione trasferirà al comune di Pasiano di Pordenone la somma di 1 milione di euro per la realizzazione del canale scolmatore già progettato. Lo ha riferito ieri l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro al termine dell'incontro svoltosi nel municipio di Pasiano. In settimana sarà autorizzata la modifica per accelerare la procedura di affidamento dei lavori. L'opera servirà a mitigare i problemi idraulici da un lato, ma anche a mettere in sicurezza l'abitato e a consentire l'espansione del capoluogo. La spesa complessiva sarà pari a 1.250.000 euro. Esercitazioni notturne per gli F-16 americani della base di Aviano. Lo ha comunicato lo stesso comando statunitense, assicurando che i piloti adotteranno tutte le procedure necessarie per minimizzare i disagi alla cittadinanza. Le sessioni di addestramento si svolgeranno nella prima metà di dicembre e si concluderanno sempre entro la mezzanotte. Attività sospesa nei fine settimana e nelle giornate festive. Un migliaio di dipendenti regionali saranno i primi a ridar vita al Porto Vecchio di Trieste, luogo immenso e da oltre un secolo abbandonato. Saranno sistemati in 4 ex magazzini. La Regione compra per poco più di 10 milioni e mezzo di euro 4 edifici in Porto Vecchio, il magazzino numero 7, il 10, il 118 e l'hangar 21. In questo quadrilatero si trasferiranno gli uffici delle varie direzioni che oggi sono sparse per il centro città e anche il centro comunale per l'impiego e una stazione dei carabinieri. La Regione stanzia altri 10 milioni e mezzo di euro per la valorizzazione di tutta l'area di Porto Vecchio. Il presidente Fedriga, contrario alla sdemanializzazione nel 2014, ora abbraccia il progetto con entusiasmo. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Penso che la politica non possa continuare a fare battaglie lasciando tutto fermo, deve prendere in considerazione quanto avvenuto e oggi lavorare per lo sviluppo. Chi investe in Porto Vecchio non può essere una cattedrale nel deserto, ma deve trovare dei servizi. Quando 1.000 dipendenti della regione si trasferiscono a lavorare in Porto Vecchio da altre aree della città, vuol dire incentivare la creazione di questi servizi. A stabilire il costo dei magazzini è il consorzio Ursus, presieduto dall'ingegnere Giulio Bernetti. Questa è la prima vendita. La Regione sceglie dei magazzini, non fronte mare correttamente, coerenti con le destinazioni urbanistiche del Porto Vecchio e, cosa non da sottovalutare, è disponibile anche a versare una sorta di chip per la manutenzione. Ad apporre la firma di questo accordo storico anche Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale. Abbiamo appunto un compito molto bello, che è quello di incassare i soldi che arrivano dall'operazione, quindi insomma da questo punto di vista oggi siamo un po' defilati rispetto ai grandi attori dell'operazione che sono la Regione e il Comune. La Regione stima che il quadrilatero costerà 159 milioni di euro, metà dei soldi arriveranno dalla vendita dei 7 palazzi oggi di proprietà della Regione, quello della Direzione Salute, Lavoro, Ambiente, Finanze, la Direzione Attività Produttive, il Palazzo della Cultura e la Direzione Uffici di Via Giulia. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comitato Salute Pubblica Bene Comune del Pordenonese tiene stamattina un volantinaggio davanti alle strutture sanitarie di Pordenone, Sacile e Spilimbergo, in coincidenza con la mobilitazione promossa dal Comune di San Vito al Tagliamento in difesa della qualità del sistema sanitario regionale. Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia terrà un incontro sul tema Pordenone Regione, lavoro svolto e programma in vista del 2023 nell'auditorium della Regione di Largo San Giorgio a Pordenone alle 19.30. Il bilancio di previsione per l'anno prossimo del Comune di Trieste. Il documento chiude in pareggio a 856 milioni. In questa somma sono inclusi 244 milioni di euro per opere pubbliche. Il bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale di Trieste chiude 856 milioni di euro, 26 milioni in più rispetto all'anno corrente. Degli 856 milioni di euro previsti, 354 saranno per le spese correnti, cioè per il funzionamento della macchina amministrativa. Qui rientrano i 106 milioni di euro per il personale e quasi 180 per l'acquisto di beni e servizi, dalle bollette allo smaltimento dei rifiuti, alle mense scolastiche, all'acquisto di servizi sociali commerciali e residenziali. Per le spese in conto capitale, tra le quali ci sono i 244 milioni di opere pubbliche illustrate una settimana fa, la Giunta conta di spendere 308 milioni. La dotazione per le politiche sociali e la famiglia ammonta a 117 milioni, di cui 50 a sostegno dei minori e delle rette degli asili nido e 43 per le disabilità e gli anziani, 18 milioni e mezzo per le famiglie. Altri 40 milioni saranno destinati all'istruzione. Se la Giunta di Piazza, accanto all'ammontare della dotazione finanziaria, evidenzia la celerità dei tempi, perché conta di far approvare il bilancio in Consiglio Comunale entro la fine dell'anno, rendendo così le risorse immediatamente disponibili, il PD, attraverso il capogruppo Barbo, lamenta che concedere alle circoscrizioni solo pochi giorni al posto dei canonici 20 per esaminare centinaia di pagine di documento dimostra scarsa considerazione nei confronti delle periferie. Per il PD, inoltre, servivano maggiori risorse per il sociale. In termini di lavori pubblici, Barbo vede tanti annunci ma pochi fatti. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. L'azienda provinciale dei trasporti di Gorizia ha annunciato un ammodernamento della sua flotta di autobus. Gli obiettivi sono quelli di ridurre l'inquinamento, ma anche di diversificare le fonti energetiche. È già a buon punto il lavoro di pulizia e dissodamento del terreno nell'area dell'Iserta Monfalcone adiacente a Marina Lepanto. 40.000 metri quadri su cui sorgerà l'impianto di APT Gorizia da 5 milioni di euro per produrre idrogeno destinato ai primi 18 autobus, anch'essi in arrivo con un investimento di 15 milioni. Caterina Belletti, presidente di APT Gorizia. Il nostro sarà un impianto interamente green, cioè significa che anche l'energia, l'idrogeno sarà green, perché sarà prodotto dall'energia solare, e in questo terreno saranno installati 20.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici. L'impianto produrrà 2 megawatt, dei quali un quarto andrà alla cogenerazione di idrogeno con un ritmo iniziale di 60-70 kg al giorno. Un pieno di 30 kg consente un'autonomia di circa 270 km. Questo è un terreno del consorzio industriale che APT ha acquisito. Questo dimostra che si può fare e si deve fare rete con i partner di questa realtà, di questo progetto. Ovviamente il comune di Monfalcone e ovviamente l'aeroporto. Venerdì abbiamo presentato all'assemblea dei soci il piano degli investimenti, significa anche investimenti su Gorizia, con impianto per il gas in metano liquido. Certo che senza le ricariche compreremo tanti autobus che potremo tenere come delle belle statuine. Il punto di ricarica sorgerà al parcheggio automezzi dell'APT a Gorizia e la scelta del metano guarda oltre l'attuale crisi dei prezzi. Oggi il mercato è drogato, ma come tante altre componenti. Per la mobilità sostenibile siamo impegnati in una transizione. Gli autobus a metano LNG saranno 15 con un investimento di 7 milioni. Non c'è solo idrogeno, non c'è solo gas liquido, c'è anche elettrico. Gorizia 2020-25, il miglior biglietto da visita è avere degli autobus elettrici che possano collegare le due realtà, Gorizia e Nova Gorizia. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il CRO di Aviano ha avviato una importante collaborazione con un prestigioso centro oncologico degli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di migliorare le cure, soprattutto dei tumori più difficili da combattere. Un convegno che ha messo insieme gli esperti del CRO di Aviano con i colleghi statunitensi dell'MD Anderson Cancer Center, tra i maggiori centri oncologici al mondo. Primo passo di una collaborazione quinquennale per migliorare ricerca e trattamento clinico, specie delle malattie ancora oggi più difficili da curare. Giulio Dreta è il direttore scientifico dell'MD Anderson Cancer Center. Ci sono malattie come carcinomi del pancreas, carcinomi dell'ovaio, molte altre che, sulle quali ancora non riusciamo a vincere. È necessario quindi stabilire collaborazioni a livello internazionale che portino insieme prospettive diverse. La collaborazione con Aviano è nata in maniera organica attraverso interazioni, nel caso specifico sul trattamento del carcinoma dell'ovaio, dove insieme hanno sviluppato progetti di collaborazione che porteranno, speriamo, a risultati che siano impactful nel corso degli anni. La sfida per il futuro è la medicina personalizzata, l'oncologia di precisione. Gustavo Baldassarre, direttore dell'oncologia molecolare del CRO di Aviano. Dobbiamo essere in grado nei prossimi anni, questa è la sfida che ci siamo posti, di dare ad ogni paziente il miglior trattamento per lui, basandoci non solo sulla caratteristiche del tumore da un punto di vista istologico e morfologico, ma anche molecolare, quindi diciamo caratterizzare molto bene i tumori e in presenza di alterazioni specifiche dare terapie che siano sempre meno tossiche e più attive. Aviano, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal concerto di Natale alla festa in piazza per Capodanno sono tante le iniziative per le feste in programma a Udine. Musica, teatro, arte, danza, incontri, letture e giochi. Oltre 200 eventi per 7 settimane di programmazione. È fitto di iniziative il cartellone di eventi promossi dal Comune per la rassegna Natale a Udine da fine novembre a metà gennaio. Proposte culturali per tutte le fasce di età ed aree di interesse con il contributo della Biblioteca dei Civici Musei, del Museo Etnografico e del Museo Friulano di Storia Naturale, oltre che delle iniziative organizzate dall'assessorato al turismo e grandi eventi e dall'assessorato all'istruzione. Numerose anche le proposte di oltre 20 realtà associative del territorio che presentano una serie di progetti articolati non solo per il centro storico ma anche per i quartieri cittadini, con una particolare attenzione alla tematica le tradizioni natalizie in Friuli. L'8 dicembre alle 11 inaugurazione della casetta di Babbo Natale e il villaggio di Babbo Natale si animerà con tanti altri appuntamenti per bambini e famiglie fino alla vigilia di Natale il 23 dicembre alle 18 al Giovanni da Udine il concerto Natale in orchestra ad ingresso gratuito e offerto dal Comune che vuole fare memoria del sacrificio dei 3 poliziotti vittime dell'esplosione del 23 dicembre del 98 in Viale Ungheria. Il 31 dicembre alle 18 in programma al Teatro Nuovo il concerto di fine anno con Strauss Festival Orchestra View e alle 21 in Piazza Libertà inizia la festa di Capodanno con musica e animazione per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Parte oggi da Trieste il tour italiano dei Soweto Gospel Choir, l'ensemble vocale nato per portare avanti le lotte per la libertà di Nelson Mandela ed è una delle band più apprezzate a livello mondiale che ha collaborato con Aretha Franklin, gli O2, Stevie Wonder e i Red Hot Chili Peppers. Il concerto, che combina gospel tribale, tradizionale, africano e occidentale, comincia alle 21 al Politeama Rossetti. Uno scrittore, una città. Oggi in sala Baslen di Palazzo Gopcevic alle 11 ci sarà l'incontro su Umberto Saba e Trieste, una città, un sentimento. Una conversazione cui prenderanno parte i poeti Mary B. Tolusso, Giuseppe Nava e Cristian Sinicco, lo scrittore Alberto Garlini, curatore di Pordenone Legge, e Mario Cerne. Proprio ad Alberto Garlini abbiamo chiesto quale sia oggi il legame della città con Umberto Saba, ricordando la necessità di custodirne la memoria anche attraverso la storica libreria del poeta. Credo che sia impossibile staccare la poesia di Saba da Trieste. In un certo senso Saba è la forma stessa della città. Scriveva Perrella, un critico, che Saba appunto è Trieste, i suoi sali scendi, la congiunzione dell'alto con il basso. Addirittura dice che la città è la psiche stessa dell'autore, cioè che la psiche dell'autore è la forma stessa della città, che mi sembra una metafora che riesce a cogliere l'importanza della città di Trieste per Saba. Credo che ci sia una smemoratezza non solo per Saba, ma in generale per gran parte dei grandi poeti del Novecento. La letteratura adesso spesso si muove sull'oggi, sul momento, sulle discussioni dell'attimo, sul pettegolezzo. Tra gli elementi che ricorrono c'è la libreria, quella di Mario Cerne. Mario Cerne è un po' anche lui una testimonianza di Saba, è un custode, un giusto custode della memoria di Saba. Quella libreria, tra l'altro, è legata a talmente tanti aneddoti che sono tutti bellissimi. Saba appunto scrive che un giorno, girovagando per Trieste, passa davanti a questa libreria e la vede come una specie di buco dove non vorrebbe mai seppellirsi e una settimana dopo la compra. A un certo punto non era portato, diciamo, per gli affari, così dicono, perché sentavano persone, spaventava tutte le commesse, sentavano persone, le trattava in malo modo, insomma non era il, diciamo, proprio quel tipo di padrone del negozio affabile che cerca di vendere il più possibile. Un giorno poi passa appunto Cerne, questo ragazzo allora giovanissimo, sembra che avesse 19 anni, e diventa in sostanza il collaboratore e si crea un rapporto molto forte fra di loro. E in questo momento Mario Cerne, che è figlio appunto di quel Cerne, è il custode po' di una memoria straordinaria, ormai credo che quella di Pavia sia una sorta di museo. A Trieste arriva lo spettacolo Caveman, monologo cult nato negli Stati Uniti e visto da milioni di spettatori. Al centro c'è, in chiave comica, l'eterno incontro-scontro tra uomo e donna, con le manie e i difetti di lui e di lei. La versione italiana, diretta da Teo Teocoli e con l'accompagnamento dei 5 musicisti della Cave Band, è interpretata dal regista e attore comico Maurizio Colombi. Appuntamento al Teatro Orazio Bobbio alle 20.30. Sport, calcio, Serie C. Oggi il Pordenone sfiderà in casa la Pro Patria alle 14.30. Per la formazione di Di Carlo, che viene da un pareggio con la Pro Sesto, è importante riprendere la striscia positiva. L'obiettivo è chiudere da prima in classifica il girone di andata. A fondo classifica si parla già di scontro salvezza per la Triestina, che da penultima giocherà oggi in trasferta contro il Piacenza, che è ultimo. Fischio d'inizio alle 18 per gli alabardati, con un centrocampo decimato dagli infortuni, è imperativo non perdere. Pallanuoto, tornano gli impegni europei per la Pallanuoto Trieste. Nella gara di andata degli ottavi di finale di Eurocup, la squadra di Daniele Bettini sarà impegnata contro i parigini del Noisy-le-Sec, secondo in classifica in Francia dopo Marsiglia. Affronteremo un avversario molto forte, spiega l'allenatore alabardato, organizzato, completo, con alcune individualità che possono mettere in difficoltà un po' tutti a livello internazionale. Tra gli uomini a cui prestare attenzione c'è l'attaccante serbo Drasko Gogov, ex della Pallanuoto Trieste per 3 stagioni, dal 17 al 2020, e Antonio Petkovic, veterano croato, classe 86. Si gioca nella piscina Aqua Stadium di Aulnay-sous-Bois di Parigi, con inizio alle ore 20. La rassegna stampa Varzila, la lunga trattativa, il titolo alto di prima pagina del Piccolo di Trieste, sotto una foto orizzontale della nave arrivata per caricare i motori acquistati da Fincantieri. Altro titolo, gli uffici regionali in Porto Vecchio, firmato l'accordo. Sul futuro dei lavoratori di Sant'Orligo, le prime due pagine del giornale Varzila, gli esuberi scendono a quota 400, la partita degli organici. Trattativa nella notte, sul tavolo anche le opzioni per il futuro con i diversi piani di riassorbimento dei lavoratori. Azienda pronta a investire 5 milioni in 2 anni. Una pagina interna sul disegno di legge costituzionale per la tutela della lingua italiana. La proposta di Menia gela il centrodestra e agita le opposizioni. L'apertura delle pagine di Trieste, regione in Porto Vecchio, per spostare le sedi investiremo 150 milioni. E poi un titolo sulla controversa ipotesi dell'Uvovia, ok dalla soprintendenza alla variante urbanistica per il progetto, ora l'iter di approvazione. Cronaca giudiziaria, avviato l'iter per trasferire Meran, l'omicida dei 2 poliziotti nella questura di Trieste nell'ottobre del 19, dal carcere alla REMS di Aurisina. Il Messaggero Veneto invece apre sulla classifica delle scuole fatte da Eduscopio. Nella provincia di Udine il miglior liceo è a Gemona. Si tratta del Magrini Marchetti, secondo in classifica, che ha riportato un punteggio di 82,97. Al primo posto le Filandiere di San Vito al Tagliamento. Ma il Malignani, si ricorda di Cervignano, ha l'indice di occupazione post-diploma più alto in regione. A centropagina la polemica sul friulano a scuola innescata dal senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia. Anche il suo partito lo scarica, mentre sull'insegnamento della marilenghe a scuola il quotidiano raccoglie nelle pagine interne le reazioni dell'Arlef e del presidente del Consiglio regionale Pier Mauro Zanin. Nelle pagine interne aumenta il prezzo delle mense scolastiche, che nel prossimo bando del comune arriveranno a 3,3 milioni. Da domani poi sono più cari anche i carburanti e oggi è l'ultima occasione per fare un pieno con lo sconto di 30 centesimi sulle accise. Anche il Gazzettino, edizione di Udine, apre sull'aumento dei costi, ma in questo caso delle case di riposo. Il letto di un anziano, si scrive, costerà 3,50 euro in più al giorno. Ci si può consolare con i 200 eventi natalizi in programma a Udine, al centro della pagina, e festeggiare oggi i 126 anni dell'Udinese. edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. A Monfalcone, park dei croceristi in prestito al porto per le auto sbarcate. A Capodistria non c'è più posto e dunque il comune ha messo a disposizione l'area del parcheggio di via Vittorio Veneto, considerato che il traffico croceristico riprenderà il prossimo aprile. Politica in apertura delle pagine di Gorizia, c'è il via libera all'assestamento di bilancio, resta il nodo delle commissioni. Una manovra da 1.300.000 euro tra caro energia e assistenza, muro contro muro sulle presidenze. Solidarietà, donate nell'Isontino 22 tonnellate di cibo alla colletta alimentare. L'apertura di Monfalcone approfondisce la questione dell'impiego del parcheggio in prossimità del porto, park dei croceristi prestato a CETAL grazie alla pausa delle navi bianche. Anche nell'edizione di Pordenone il Messaggero Veneto apre sulla classifica delle scuole, ricordando che Pordenone è al primo posto. Ottimi risultati della scuola e della provincia, il liceo di San Vito è il migliore in regione. Fotonotizia sul rischio alluvioni, diminuito negli ultimi 20 anni, la differenza la fa la diga di Ravedis, ma resta a rischio Pordenone. Intanto sul versante economico è previsto nel giro di 2 anni un polo logistico a Orcenico Inferiore a Zoppola, nell'area dell'ex Ideal Standard, per risollevare il territorio, mentre il governatore Fedriga critica Electrolux per i tagli. Non si può essere imprenditori solo quando le cose vanno molto bene, dice. Il Gazzettino, nell'edizione locale, sotto la notizia sulla stangata per le case di riposo, mette al centro l'immagine di un piccione. Il sindaco ordina affamare i piccioni. Gli uccelli sono in costante aumento e rappresentano un rischio per la salute. E sempre a proposito di salute, è arrivata l'influenza. In ospedale visitati 40 bimbi ogni giorno, con alcune classi decimate. Nuovo appuntamento della rassegna Pasolini 100 del collettivo Terzo Teatro di Gorizia. A Grado sono in programma stasera 2 omaggi all'intellettuale e poeta friulano. Si parte con l'attore e regista Tullio Svettini, che si esibirà in un reading sui celebri versi del grande poeta gradese Biagio Marin. Seguirà lo spettacolo Medea, un amore impossibile, scritto e interpretato dal drammaturgo, attore e regista Giorgio Amodeo, che racconta l'incontro fra Pasolini e Maria Callas, la cantante lirica più acclamata dell'epoca. Appuntamento all'Auditorium Biagio Marin di Grado alle 20.45. Si intitola Da Porzus a Bosco Romagno, il volume che racconta la tragica fine di Guidalberto Pasolini, fratello di Pierpaolo, ucciso nel contesto dell'eccidio di Porzus. L'autore, Paolo Strazzolini, presenta oggi la riedizione del libro alla Sala Consiliare di San Giovanni al Natisone alle 18.30. Il critico cinematografico Roberto Chiesi introduce stasera la proiezione di Porcile, 8° appuntamento nell'ambito della retrospettiva dedicata ai film di Pasolini. Appuntamento stasera al Visionario di Udine alle 20.45 e nell'occasione Chiesi presenterà il suo ultimo lavoro, Pasolini, il fantasma del presente, uscito quest'anno per Ballecchi Editore. E stasera a Gradisca di Sonzo va in scena la rivisitazione della commedia Le preziose ridicole di Molière, con protagoniste le attrici e ballerine Benedicta Boccoli e Lorenza Mario. Nell'adattamento di Stefano Artissunc, lo spettacolo è ambientato a Roma negli anni 40 e racconta, mescolando teatro e varietà, le avventure di 2 donne provinciali che vivono di spettacolo tra amori e canzoni e con in sottofondo la figura di un gigante come Molière. È uno spettacolo che ha debuttato da poco, uno spettacolo a mio parere bello e soprattutto coraggioso. Che cos'è? È uno spettacolo che parla di Molière attraverso 2 soubrette dei primi del Novecento durante la Seconda Guerra Mondiale. Cantiamo tutti i pezzi degli anni 30 come Il pinguino innamorato, Mamma mi ci vuole un fidanzato, cose di questo genere. Sono numeri da varietà e devo dire che il pubblico si diverte moltissimo, ascolta Molière e gioisce con il varietà e un po' di avanspettacolo. E questo rende Molière più attuale secondo lei? Sicuramente più attraente per chi non ha voglia, no, di leggere o di sapere, perché questo è un atto unico di Molière che fanno poco, e Le preziose ridicole trovo che sia un un titolo delizioso che ci sta a pennello. Certo, poi si rifà anche a un'epoca e un linguaggio francese che giocava molto con i giochi di parole e che Molière prende in giro. Ci sarà anche questo nello spettacolo? Assolutamente sì, sì. Noi diciamo anche che Molière è misogino, che trattava le donne con un po', le ridicolizzava un pochino. E forse un po' è vero, insomma, si tratta di un grande autore e noi attraverso questo grande autore raccontiamo la rivista El Varietà, che è una cosa molto originale e molto coraggiosa, perché non si aspetterebbe mai Molière e la rivista, no? Faccio un esempio, noi cantiamo Mal l'amore no, che è una canzone famosissima, Mal l'amore no, di da da da da da, quella lì. E mentre una canta, l'altra recita Molière. E insieme le due cose sono molto compatibili. E noi diamo uno sguardo ai programmi odierni della nostra sede. Alle 11.10 la rubrica in friulano parlerà del nono ciclo della scuola di specializzazione in acquacoltura dell'Università di Udine. Alle 11.20 a volo radente parlerà dei modi di vivere il territorio a impatto zero, di realtà virtuale e di politiche di inclusione e partecipazione delle persone con disabilità. Sono le 7:53 minuti 50 secondi. L'assistenza tecnica è stata garantita da Andrea Fontanotte, da Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Per il momento noi ci fermiamo qui, prossimi appuntamenti con la nostra informazione, pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza c'è il flash e quindi l'edizione delle 12:30. Potete seguire gli aggiornamenti sui nostri profili Twitter, Facebook, Telegram e sulla pagina web della redazione all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg. Grazie della cortese attenzione da Dario Ronzoni e da Antonio Cajazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.